Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. E ancora la crisi greca, fra voci e smentite che si rincorrono su una possibile ristrutturazione del debito, al centro dell'attenzione internazionale di questa nuova puntata di Economia in Europa. Parleremo anche dei rapporti fra Francia e Italia, dopo il vertice che si è tenuto nei giorni scorsi a Villa Madama. Cominciamo dunque dalla Grecia. Il governo del paese sembra sempre più intenzionato a spingere sulle privatizzazioni per tenere a distanza lo spettro di una ristrutturazione del debito. È questa la strategia su cui punta Atene per fronteggiare il suo enorme debito che il ministro delle finanze Papa Costantino ha definito assolutamente amministrabile. Di ristrutturazione però si continua a parlare. I titoli di Stato nel frattempo continuano a salire vertiginosamente. In cosa consisterebbe la ristrutturazione e quale modalità è più temuta dai mercati? L'analisi di Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Il debito greco è di 340 miliardi di euro. Quindi è quasi il 130% del PIL, una cosa abbastanza, diciamo, enorme. 70 di questi miliardi sono tutti interni, cioè sono in mano 48 miliardi alle banche greche, 22 miliardi ai fondi pensioni. Gli altri 130 circa sono in mano a creditori ufficiali, cioè alla BCE, al Fondo Monetario, a Stati. E altri 140 miliardi di euro sono in mano alle banche europee. Questa è un po', diciamo, la questione. Quindi chiunque abbia parli di ristrutturazione sa che qualcuno ci perderà, e ci perdono sia i greci, sia le banche estere, sia chi ha finanziato. Questo è il problema. Che cosa si intende per ristrutturazione? La ristrutturazione si divide in tre parti. La prima è quella chiamata dell'allungamento del tempo con cui il debitore deve restituire appunto il debito, ed è la maturity, quindi si dà più tempo per restituire. E questo può anche non preoccupare più di questo tanto. Questo è quello meno preoccupante, in effetti. Poi c'è quella della riduzione del coupon, cioè dell'interesse, quindi io ti dovevo un interesse per il prestito che mi hai dato, ma te lo riduco, non so, ti dovevo il 5, ti do il 4, oppure ti do il 3. Anche questo non è particolarmente doloroso. So. Quella più temuta dai mercati è la cosiddetta ristrutturazione, che si chiama in termini tecnici haircut, cioè il taglio dei capelli, cioè il taglio del capitale. Allora ti devo 100, te ne do di meno, e qui cominciano i dolori, perché io allora perdo il capitale che ti avevo dato, certo. Non solo perdo l'interesse, non solo perdo me lo darai con più tempo, ma addirittura non ritorna neanche l'investimento. Bruegel, un istituto di Bruxelles, ha fatto i suoi calcoli e ha cominciato a dire: facciamo un'ipotesi di 25% di taglio o al massimo di 50, e ha ipotizzato tra i 30 e i 60 miliardi di perdite per le banche europee, perché sono quelle che interessano di più, perché sono, diciamo, i risparmiatori privati e le banche, perché sono tutti insieme in questo calcolo. Oggi invece è uscito uno studio di Goldman Sachs, la banca d'affari americana, la più importante banca d'affari al mondo, che ha fatto questo calcolo: dal 20 al 60% di taglio, quindi è un pochino diverso, e andrebbe a costare per le banche europee tra i 13 e i 41 miliardi di euro. Ora sembra una cifra enorme, 41 miliardi, però rispetto ai 140 complessivi, ecco, è ripartiti tra tutte le banche europee, quindi francesi, tedesche, britanniche, svizzere, e ci sono anche un 5 miliardi di banche italiane al settembre 2010, quindi gli ultimi dati. L'Italia non sarebbe in prima linea, non è in prima linea su questo. Sì, è proprio quasi una cenerentola in questa cosa, in cui nessuno naturalmente vuole essere il primo. E qui 41 miliardi non sarebbero, sia perché gradualmente, insomma, i capitali delle banche europee sono stati aumentati, sia perché complessivamente rispetto alla grandezza delle banche non è enorme, sarebbe in qualche modo assorbibile. Tutto bene, però insomma, fino a un certo punto, perché in realtà c'è di mezzo anche la BCE, quindi l'istituzione principale dell'euro, e questa andrebbe a ricadere sulla BCE, e sarebbe anche un po' una macchia. Mentre ancora si discute sul caso Parmalat, dopo l'offerta pubblica di acquisto lanciata dai francesi di Lactalis, si è tenuto a Roma, a Villa Madama, il vertice italo-francese. Al centro dell'incontro, accanto a immigrazione e nucleare, anche i rapporti commerciali fra i due paesi. Le partecipazioni italiane in Francia ammontano a circa 30 miliardi di euro, più o meno come quelle francesi in Italia. Ma le nostre partecipazioni in Francia sono di piccole e medie imprese, mentre le